Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Io non capivo se mi trovavo in via Chiaia o in una lontana città esotica, o a Parigi, forse. Mi domandavo anche se avessi bevuto qualcosa di forte in quel mio girovagare ansioso per Napoli. Sentivo e non sentivo le parole di Franco. «Quello è un fachiro», mi diceva il redattore del giornale. «Digiuna già da varie settimane». «Nel circolo del cinema», dissi io. «Ora non è più il circolo del cinema». «E perché mai?» «Non pagavamo», disse con ironia il Gadkens. «I napoletani», disse con dolcezza Franco, «preferiscono giustamente questi spettacoli ad altri. Sono più riposanti. Sono infine la contemplazione e la penitenza, cioè Napoli». Guardai il Prunas e mi parve ancora più piccolo di quanto mi fosse parso prima. Non sorrideva né muoveva ciglio e mi venne di domandarmi se fosse estremamente vivo o solo estremamente morto. Per un tempo che posso calcolare in questo modo. Il cielo non era più roseo ma viola ed era discesa la sera. Per questo tempo rimanemmo tutti fermi davanti a quel cancello, guardando attraverso il cortile illuminato il basso edificio della Sant'Orsola. Guardavamo il cartello a modo del pubblico normale, quasi considerando la possibilità di fornirci di un biglietto d'ingresso. Alla fine io domandai al ragazzo di cui scorgevo al mio fianco un sorriso smorto, gli domandai gentilmente che cosa di preciso facesse a Napoli. A questa domanda non vi fu nessuna risposta. «Ma lavori?» io ripetei. Il sorriso smorto al mio fianco divenne appena più teso, poi disparve. Il ragazzo si soffiava indifferente il naso. Dissi ancora: «Hai speranza in qualche cosa?» Fu come se avessi parlato davanti a un muro, ritto in una pianura abitata solo dal vento. Allora fui certa che egli era veramente morto, finito. Si era ostinato e perduto, benché a prima vista non apparisse. Nessuno di quelli che avevo finora incontrato mi aveva nascosto così la sua morte. Avevo visto la dichiarazione di fine, di fallimento, scritta in caratteri abbastanza chiari su ogni volto, come un avviso di tribunale affisso su una povera porta. Dietro si intravedeva il fuoco che sta per spegnersi, una spalla curva, un occhio spaventato, o anche un fuoco selvaggiamente acceso, ma che si spegnerà. Qui, su questa faccia di pietra, non era scritto niente. La convinzione di poco prima che l'energia del nostro compagno fosse inesauribile e la sua speranza indomabile era svanita. Quello che vedevo al mio lato, fra gli altri ragazzi muti, era un piccolo uomo dal viso appassito, dallo sguardo monotono. Uno che non aveva più il coraggio di alzare gli occhi, di riprendere un discorso, di pensare un pensiero chiaro, logico. La città lo aveva distrutto. Così pensavo, irritata e triste, e ora, dietro le mie spalle, il Gadkens sembrava confermare, con il suo accento vago e monotono, i miei dubbi. Lasciammo i cancelli della Sant'Orsola e riprendemmo a camminare finché non fummo in quella via Filangieri, dove la sera avanti avevo visto Guido soffiarsi con un ventaglio da donna e parlare con tanta angoscia di Luigi. Luigi fu improvvisamente davanti a noi, zoppo ma ancora alto e bello, con la sua fine testa oscurata da una maschera, attraverso cui era visibile l'azzurro degli occhi. Lo vedemmo proprio là, sotto l'orologio, con la moglie ed il figlio. Camminava lentamente, un po' curvo, il volto in avanti come cercando qualcosa. Tutti lo vedemmo così, ma non era che pura immaginazione. Luigi, a quell'ora, nella sua casa solitaria, spiava la porta a vetri per vedere chi passava sulla strada oppure salutava con una smorfia un amico. A questo punto il Prunas si staccò da noi e corse avanti per via Filangieri come se avesse visto qualcosa o qualcuno che lo interessasse. Volevo sapere chi o che cosa aveva visto, e anch'io mi staccai dagli altri e lo raggiunsi. Il suo vecchio viso rimaneva pallido e duro come nei migliori giorni dell'adolescenza. Non mi parlò, né io gli dissi qualcosa. Mi parve di capire, con immensa meraviglia, che egli non avesse immaginazione né sentimento, almeno secondo il modello comune, o, avendoli, li considerasse come un'energia che va controllata continuamente, e questo gli permetteva di non aver paura di Napoli. Come tutte le mostruosità, Napoli non aveva alcun effetto su persone scarsamente umane, e i suoi smisurati incanti non potevano lasciare traccia su un cuore freddo. Così ripresi il colloquio di poco prima. «E che cosa pensi di fare, allora?» ricominciai a chiedere gentilmente, come già del tempo non fosse passato. La risposta secca fu «Nulla». «Come nulla?» insistei. «Nulla, se non ho denaro, voglio dire». «E se avessi il denaro?» «Macchine, una tipografia». «Le macchine può portarle chiunque», dissi, «purché abbia il denaro». «Ma non sarebbero le stesse macchine», rispose freddo. «Le tue come sarebbero?» «Macchine libere», disse. «Ma le macchine non sono soltanto macchine, forse», obiettai quietamente. «Vi sono macchine e macchine», rispose. «Macchine che sono fatte dagli uomini e macchine che sono regalate agli uomini. Quelle che li guariscono sono le prime». «Vuoi dire che debbono nascere a Napoli e non essere portate, questo vuoi dire?» «Certo! Ma tu non hai denaro per nulla, mi pare!» «No, neppure un soldo!» «E allora?» «Allora, niente!» «Sono già passati alcuni anni», dissi gravemente. «Molti sono invecchiati, forse lo hai notato anche tu. Due rughe, un tic che si fa più deciso, sembra niente!» A queste parole sussultò, poi parve tornare indifferente. «Non è possibile che non succeda mai niente!» «Un giorno forse capiterà qualcosa. Allora mi farà piacere essere rimasto qui ad aspettare». «E se non capitasse nulla?» gli chiesi. Non rispose. Tornò ancora, come un ragazzetto testardo, a soffiarsi il naso, ed era per non rispondermi. Non sapevo più se mi facesse pietà o lo ammirassi. Era così piccolo e ostinato. Presto, Napoli avrebbe soffocato anche lui nelle sue braccia smisurate. Era come una formica rossa sul versante della montagna. Non vedeva o non tollerava la terribile maestà di questa. Correva leggera e insensibile, pensando di costruire qui le sue difese, le sue fortezze. «Ora vai a casa?» chiesi vedendo che si fermava. «Sì, c'ho un sonno cane». Sorrisi appena, mentre mi stringeva la mano. Poi tornò indietro. Stetti a guardarlo ancora un poco, finché non lo vidi più. Rapido com'era, doveva già aver raggiunto Monte di Dio. Allora tornai al mio albergo e, pensando tanti casi e persone, passò la notte e riapparve l'alba del giorno in cui dovevo ripartire. Mi accostai alla finestra di quella casa che era alta come una torre, e guardai da là tutta Napoli. Nella immensa luce, delicata come quella di una conchiglia, dalle verdi colline del Vomero e di Capodimonte fino alla punta scura di Posillipo, era un solo sonno, una meraviglia senza coscienza. Non si sentiva che lo sciacquio tranquillo dell'acqua sugli scogli, non si vedevano che le colline sempre più vive e vittoriose nella luce, e più giù, le case e i vicoli grigi, i miseri vicoli infetti, dove brillava ancora sulle immondizie qualche lume. Ma il giorno diveniva sempre più alto e splendido, e a poco, anche quelle ultime luci si spensero. Le giacchette grigie di Monte di Dio. Io temo di non aver mai visto davvero Napoli, nella realtà in genere. Temo di non aver conosciuto veramente l'Italia né prima né dopo la guerra. Ciò che mi ha consentito di accostare l'una e l'altra e parlarne in qualche libro sono state le emozioni e anche i suoni e le luci e lo stesso senso di freddo e nulla che da queste realtà procedeva. Insomma, io non amavo il reale. Esso era per me, sebbene non ne fossi molto consapevole, quasi intollerabile. Da dove questa intollerabilità provenisse, non sono ancora adesso in grado di dire. O dovrei interrogare la metafisica. E di Napoli, ciò che ricordo ancora del dopoguerra, non sono i granili né il vicolo della cupa né le vie miracolate di Forcella. Ciò che ricordo davvero è la via o località chiamata Monte di Dio e il collegio militare dell'Annunziatella e la casa della nobile famiglia cagliaritana che vi abitava, la famiglia del colonnello Prunas, preside di quel collegio. Ecco, l'Annunziatella, i suoi cortili, i suoi edifici severi, il silenzio, l'ordine di quella scuola militare e, per contrasto, la vivacità e vitalità irrefrenabile del ragazzo Prunas e dei suoi amici e la generosità e il calore della sua famiglia e dei loro amici restano tutto il mio autentico ricordo di Napoli. Emozioni, luci e suoni, dunque. Non misura della grave realtà di Napoli e del mondo che aspettava fuori. Quella io non l'accettavo. L'avevo intravista e respinta già altrove. Ma si dava il caso che il giornale di Prunas, il quindicinale di critica al reale storico da lui ideato, quel modernissimo e oltranzista Sud, avesse bisogno di documenti di questa realtà. Pasquale Prunas era convinto che anche io potessi trovarne e, per poter restare ancora senza troppi rimorsi all'ombra incantata dell'Annunziatella, io questi documenti li cercai. Erano le mie testimonianze di una Napoli delle palafitte, dove era passata la mia stessa adolescenza. Perciò ricordai e confrontai con la Napoli storica che adesso avevamo tutti sott'occhio e scrissi buona parte, o almeno tracciai l'intero disegno, del mio libro su Napoli, il quale dunque fu visione dell'intollerabile, non fu una vera misura delle cose. Di misure ero e sono incapace. Questo fu il mare non bagna Napoli. E dopo? Dopo venne il tempo di partire. Partimmo o morimmo a poco tutti. Pasquale Prunas restò ancora. E posso vederne il piccolo sorriso sprezzante e dolce nel viso bellissimo e immaginare come andasse ricordando i lieti anni della sua e nostra esplosione di rinnovamento e gioia, non pensando che fossero finiti. E come a un tratto, non sentendo più i nostri passi, si guardasse intorno e capisse che sì, tutto era finito. Posso immaginarne il lieve soprassalto. Forse guardò un momento in alto. Forse il suo passo rallentò. Forse era una sera senza più freddo, molto calma. Decise di restare. Tutti gli addii erano stati recitati e lui aveva deciso. Allora volse le spalle al cortile e cominciò a scendere senza tristezza verso la città. Buongiorno, sono Goffredo Fofi e sono chiamato a commentare brevemente la lettura di Yahya Forte del bellissimo libro di Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, titolo già di per sé un po' provocatorio. Anna Maria Ortese ripeteva spesso una frase che era: la realtà è intollerabile. e credo che qui in questo libro, nei racconti e nei reportage che compongono Il mare non bagna Napoli, questo sia molto evidente. Anna Maria Ortese era in difficoltà nei confronti dell'esistenza, considerava la creazione, lo ha detto e scritto molte volte, sbagliata, un fallimento, in questo non diversamente da molti teologi, non diversamente da quelli che hanno analizzato la Bibbia come un progresso nel miglioramento della creazione. L'uomo è Caino e Abele, ma può anche diventare lentamente seguace del Cristo. Nell'opera dell'Ortese, cristianesimo e illuminismo diventano via via però una sorta di nemici, perché rappresentano un modo di imbrigliare la natura. Sempre di più l'Ortese, soprattutto negli ultimi due libri, Il Cardillo Addolorato e Alonso e Visionari, cerca di trovare una difesa della natura rispetto allo sconcio che la cultura ha operato su di lei e di difendere la natura dai suoi nemici. Questo credo anche all'interno di una visione molto attuale, di tipo potremmo dire ecologico, del mondo, la necessità di una riconciliazione, lei dice da qualche parte, in qualche intervista, tra il paganesimo e il cristianesimo, cioè tra la natura e una cultura che sia una cultura però del risarcimento, una cultura dell'offerta, del dono, cercare di migliorare il mondo con il sacrificio di sé, dando al mondo qualcosa di sé, mettendosi in gioco nei confronti del mondo. In questo primo libro, la parte che ha suscitato più discussione a suo tempo e che le ha fatto anche molti nemici, ancora quando il libro è stato ristampato negli ultimi anni di vita dell'Ortese, nel 94 mi pare, da Adelphi, è ancora suscitato nuove polemiche. Perché? Perché in questo libro lei parlava male dei suoi amici che erano dei famosi intellettuali napoletani, Domenico Rea, Compagnone, La Capria e lo stesso Pasquale Prunas, a cui era affezionatissima, che era l'animatore della bella rivista Sud a cui lei aveva collaborato nell'immediato dopoguerra, perché appunto li vedeva come prigionieri di Napoli, prigionieri della natura napoletana, non in grado di superare questa natura. Era una critica in qualche modo interna, ma credo anche smentita poi nel corso degli anni da lei stessa, anche nei propri stessi confronti, perché invece continuamente c'è stata una rivendicazione della parte della natura contro la parte della ragione. È comunque in questa dialettica che si svolge la sua opera. Io credo che l'importanza dell'opera dell'Ortese sia enorme, e col tempo due degli scrittori italiani, che erano due donne, Elsa Morante e Anna Maria Ortese, visti con una certa ostilità dalla cultura ufficiale, la cultura del neorealismo, la cultura della sinistra ufficiale, la cultura comunista tra virgolette, hanno preso la loro rivincita, sono diventati gli autori forse fondamentali della seconda metà del secolo. C'è uno studioso molto importante, Giancarlo Gaeta, traduttore dei Vangeli ancora di recente, che ha scritto un saggio, un luminoso saggio molto tempo fa, dicendo che il pensiero politico, il pensiero filosofico del Novecento più importante è stato il pensiero delle donne, e citava Hannah Arendt, Etty Hillesum e la grande Simone Weil, ovviamente, di cui lui ha curato le opere, ma citava anche per l'Italia Elsa Morante e Anna Maria Ortese. Io ci aggiungerei di mio Maria Zambrano, che tra l'altro era amica della Morante, grande filosofa spagnola. Perché il pensiero femminile è superiore al pensiero dei maschi? Perché non è interessato al potere, non riguarda il potere. Il pensiero maschile è sempre rivolto a una dimensione, anche quando è critica, che mette il potere al centro, mentre nel pensiero femminile questo è assente. La grandezza dell'Ortese sta anche in questo. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. Postfazione di Goffredo Fofi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonello. Il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.